Benissimo, grazie, grazie. E adesso direi che possiamo, visto la disponibilità del professore, fargli delle domande e chiedere di approfondire magari qualche aspetto. Ma quindi, a parte che imparerò a fare un evento prima e per tempo, come funziona meglio Facebook, ma quindi ai nostri figli l'idea che noi abbiamo, almeno che ogni tanto tentiamo di avere, è quella di, non dico limitare l'accesso alla rete, ma come far capire loro che quello è qualcosa di un po' finto. In realtà è una competenza che è obbligatorio che acquisiscano. Noi facciamo un po' fatica però, cioè ci troviamo nella condizione di quelli che capiscono che c'è delle potenzialità, però io vedo un sacco di rischi e la tendenza che hai è quella di stringere. E a noi sembra assurdo che, non so, penso i ragazzi più grandi si vedono a scuola, poi tornano a casa e su Facebook, ma come, ti sei visto fino all'1:10, cosa ti devi dire? Eppure funziona così. Quindi questa tendenza che abbiamo di cercare di limitare l'accesso alla rete è buona, non è buona, è meglio partire da un'altra parte? Un aiutino, giusto per chi è alle prime armi, ecco. Più che buona o cattiva, credo che sia inutile. Grazie. No, non solo perché i media sono parte della vita, e quindi, come dire, che senso ha limitare l'accesso a strumenti di cui è fatta l'esistenza e che serviranno ai nostri figli anche nella loro professionalità e di cui si servono le pratiche di scuola? Quindi c'è un discorso di opportunità, ma l'inutilità la si misura poi in relazione al fatto che lì dove possiamo arrivare noi con il controllo sicuramente non arrivano altri genitori che sono magari i genitori dei loro amici. E quindi il telefonino mio figlio non ce l'ha, ma magari esce di casa e naviga con il telefonino dell'amico. Cioè i pari, il gruppo dei pari spesso riempie, satura quello che anche la famiglia magari pensa di disporre diversamente. Quindi, come dire, c'è una doppia inutilità, secondo me. C'è una inutilità a livello di opportunità sociale generale e c'è una inutilità legata alla scarsa efficacia, credo, di quell'operazione. È molto più sensato garantire libertà d'uso avendo costruito o costruendo insieme a mio figlio la sua responsabilità. L'operazione da fare è un po' quella lì. Ecco, quindi vale un po' per tutte le esperienze fondamentali della vita, credo che anche per l'affettività, quando in adolescenza, ad esempio, comincia a legarsi con l'esercizio precoce della sessualità. E quello è un altro tema sul quale si può provare a limitare e si può per poi, come dire, cioè, io parlo da genitore di due figli adolescenti, sono problemi consistenti, no? Ecco, il discorso dei nuovi media è un po' la stessa cosa, cioè, quindi la pervasività delle pratiche, la diffusione dei media e la diversità degli stili familiari lascia un po' di perplessità attorno alla pretesa di riuscire a tamponare la situazione, ecco, per cui, e questo però obbliga a educare. Sì, poi c'è. Mi veniva da pensare, però ho l'età giusta, nel senso, io penso da maestra, ci sono bambini molto piccoli che sono già su Facebook terza, quarta elementare. Certo. Certamente, certamente, certamente, no, non c'è dubbio, anche lì però dipende da tante cose. Dipende ad esempio dalla maturità del mio figlio, no? I profili psicologici individuali sono diversi, no? Ci potrebbe essere il ragazzino ancora decisamente non pronto a 16 anni, ad esempio. Come magari ci potrebbe essere il ragazzino di 8 anni, come dire, molto più pronto di quello di 16 di cui dicevo prima. E quindi, come dire, ci sono i profili psicologici individuali. C'è il gruppo dei pari, che fa pressione, lo sapete, che fa pressione il gruppo dei pari, non soltanto sull'uso dei media, anche sui vestiti griffati, sulla marca delle scarpe, sul tipo di sciarpa che quell'anno lì va. E allora lì cambia molto se mio figlio sta dentro un gruppo dei pari nel quale o hai il cellulare o non sei nessuno, oppure se sta in un gruppo dei pari che si trova per giocare a pallone e per il quale il pallone è l'unica cosa che interessa. E quindi ci sono i profili individuali, ci sono i gruppi dei pari che sono differenti e poi c'è anche famiglia e famiglia. Quindi quando mi chiedono se c'è un'età sotto la quale non andare o c'è un'età preferenziale alla quale, dico sempre dipende. Dipende da come è fatto vostro figlio, da che rapporto avete con lui e da che amici frequenta. E quindi poi, sulla base di queste tre variabili e della percezione che il genitore educativamente ha di come interagiscono, si possono fare le scelte. Una legge, una regola, sfortunatamente io non mi sento di darla. Certo è che l'età media del primo accesso al social network si sta abbassando. Certo è che l'età media del possesso del primo cellulare è già molto bassa. Certo è che gli smartphone, a causa delle tariffe, delle ricaricabili vantaggiosissime, sono sempre più in mano anche a ragazzini molto piccoli. Questo è il dato. Questo è il dato. Per cui deve un po' vedere lei, mettendo insieme tutte le questioni, e decidere, magari anche con suo figlio, quando è il tempo opportuno. Io di solito raccomando di non indurre bisogni quando i bisogni non ci sono, quindi finché non chiede e tace, tranquilli, perché ci sono anche quelli che poi il bisogno lo inducono, eh? E i providers spingono in questa direzione. Sapete che ci sono anche tutta una serie di offerte da parte di molti provider di telefonia mobile per le famiglie. Qui ti dicono: guarda che penso a te, qui c'è il telefonino per tuo figlio che è bloccato, può chiamare soltanto due numeri, glieli programmi tu, stai tranquillo, no? Questo lo puoi dare anche in mano ad un bambino di 4 anni. Quindi tranquillizza il genitore per indurre un bisogno precoce nel bambino di 4 anni e soprattutto per fidelizzare il futuro cliente. Quindi vado a prendermi il futuro manager che avrà il contratto con me già a 4 anni. Ecco, lì sono le cose poi da tenere d'occhio e sulle quali prestare attenzione. Io penso che un nodo abbastanza critico sia il fatto che noi genitori non sempre siamo pronti a leggere, ad esempio, il fatto che mio figlio possa già essere abile o meno ad affrontare uno smartphone in mano e la rete che ci sta dietro. Nel senso che penso che non tutti abbiamo una competenza così pronta. Non so quanti di noi sanno muoversi in Facebook, quanti di noi sanno creare un evento in Facebook. No, per dire, l'ho creato io l'evento. Nicoletta l'ha solo rilanciato ieri, l'ha ricondiviso ieri. È colpa mia. No, nel senso che magari io ho proprio presente il caso di una bimbetta di 8 anni che innocentemente mi ha detto: sono su Facebook, io ho guardato il suo profilo e non sono sua amica, ha una valanga di foto sue. E i genitori avranno scelto con lei questa cosa? No, non sanno magari non si rendono neanche conto dei rischi. E il fatto che siamo comunque una generazione C'è talmente velocità in queste cose, noi siamo già probabilmente un po' indietro per stare al passo con i nostri figli. E secondo me è un rischio molto grande questo, che non riusciamo ad aiutarli nel diventare critici, perché non sappiamo neanche noi che cos'è questo mondo. C'è qualche ambito educativo in cui lei si sente pronta con sua figlia? Le ho risposto, cioè... No, per dire che non serve laurearsi prima in ingegneria elettronica per poi poter provare ad essere significativi nell'educare ai nuovi media, cioè fortunatamente l'educazione non è soltanto competenza tecnica, c'è una saggezza, c'è una ulteriorità, c'è una asimmetria del genitore che al di là delle competenze tecniche si impara e si impone, mi verrebbe da dire, al di là di quello che noi possiamo sapere di un argomento. Certo, poi se qualche informazione ce l'ho è meglio, per cui se la ragazzina di 8 anni è in Facebook con tutti i suoi materiali accessibili, potrei dirle: guarda che puoi decidere a chi far vedere e a chi no. Quindi io non ti sto dicendo ti chiudo il profilo, ti sto dicendo tienilo aperto, ma credo che come tu ti scegli chi è tuo amico e chi no, con una semplice operazione tu possa decidere chi può vedere e cosa delle tue informazioni e chi no. Ecco, questo è un esempio banalissimo di intervento media educativo in famiglia, che sdrammatizza, perché non sto censurando, non sto intervenendo in maniera moralistica. Dico a mio figlio: guarda, ho visto le tue foto, ma sei d'accordo che le vedano tutti? Pure lo sai che si possono... Ecco, banalmente i criteri di autorizzazione all'accesso delle informazioni, che in Facebook sono veramente molto, molto fini, molto, molto, molto precisi, non so quanto siano conosciuti al grosso degli utilizzatori, ma nemmeno dagli adulti, Nemmeno dagli adulti, non solo dai ragazzini, anzi spesso i ragazzini sono più informati che non gli adulti. Al di là dei rischi grossi, non c'è proprio il banale rischio della grandissima perdita di tempo? Cioè, io quando entro su Facebook, io dico 2 minuti, guardo cosa c'è e poi magari mi accorgo che sono passati 3 quarti d'ora, ho perso 3 quarti d'ora della mia vita. Io ho solo guardato, perché comunque... Come facciamo a far studiare i bambini, i ragazzi di pomeriggio senza l'assilo del messaggino? Adesso WhatsApp io non so cosa sia, però mi hanno fatto vedere che si scrivono in 50 contemporaneamente. Servizio di messaggeria istantanea basato su protocollo internet. Concentrazione per andare bene a scuola, studiare, fare delle cose, andare a fare sport, eccetera. Non sono troppo distratti da tutto questo? Da questo e non solo da questo. Certo c'è... Ci sono problemi, il problema del tempo è un problema. Almeno dei limiti temporali possiamo metterli, che diceva di non... Sicuramente, con Alessandra Carenzio, quando parlerete di intervento educativo e ci proverete materialmente, sulla questione del controllo del tempo, o meglio della riduzione del tempo... Ci tornerete, è evidente che troppo fa male, sempre, in qualsiasi cosa. E se anche mio figlio leggesse classici della letteratura russa tutti i pomeriggi dalle 2 alle 9, qualche preoccupazione me la darebbe, sinceramente, e forse mi preoccuperei perché magari non socializza molto il bambino, no? Allora, se gioca a pallone 8 ore tutti i pomeriggi, anche, cioè, il troppo è sempre un problema. E quindi lì... Poraneo? Il fatto è che Facebook, il telefono e tutto si può fare mentre si legge, si studia. Sì, sì, sì. È quello che... No, si può dire, si studia, allora, e poi si tiene spento e poi si riaccende una, okay, certa ora. Ok, lì provo a girarvi la domanda. Sono distratti perché sono su Facebook o sono su Facebook perché sono distratti? Questo è il punto, no? Perché è il classico argomento degli insegnanti, no? Noi come adulti tendiamo a spostare il problema sugli strumenti perché ci torna comodo, invece probabilmente lo sguardo andrebbe buttato sull'adulto e ci dovremmo chiedere perché è così distratto da trovare in Facebook un... Cioè, a me capita a volte di sperimentare sempre più di rado con i miei figli, perché gli orari ormai non ci consentono più di prenderci molto, ma quando io riesco veramente a trovare qualche cosa di sfidante dal punto di vista intellettuale, di incuriosente e di motivante, non navigano, non messaggiano e non stanno davanti a Sky alla ricerca di qualsiasi partita di calcio, di qualsiasi campionato europeo o extraeuropeo di qualsiasi serie. Ecco. Allora, quando trovo qualche cosa che li ingaggi, l'attenzione la ottengo. Quando lo trovo, se non lo trovo, ecco, è un po' come quando si diceva al tempo della televisione che se il televisore è acceso in famiglia non si parla. La ricerca dimostrava che nelle famiglie in cui non si parlava, il televisore era acceso per riempire i silenzi che ci sarebbero comunque stati. Quindi accendo il televisore e lo guardiamo perché la nostra convivialità familiare è talmente povera che non parleremo, allora riempiamo un silenzio. Se la convivialità familiare è ricca, anche davanti ad una telenovela di quarta serie, il commento, il discorso, l'analisi, la critica, l'osservazione, il discutere, il ridere, fanno anche di quel programma un'ulteriore occasione per tenere viva la convivialità. Ecco, allora lì, come dire, secondo me il problema rimbalza ancora una volta sullo stile, sul tenore della famiglia. Lì dove ci sono problemi di tempi debordanti fino al limite della addiction, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona dentro la famiglia. Se la famiglia al suo interno funziona, a mio parere tutto si equilibra un pochettino di più. Non voglio dire che non occorra essere presenti e vigilare, con la Carenzio, se questo tema ve lo ricordate, glielo potete sottoporre, vi può far navigare in rete alcuni siti dove ci sono delle proposte tecniche per le famiglie su come ridurre in maniera negoziata i tempi eccessivi che i figli passano. E poi ci sono anche gli esempi cattivi che noi diamo, col cellulare sempre acceso, telefonate in arrivo anche alle 21:30, pranzo in qualsiasi momento. Lì il modeling è inevitabile, perché ci guardano, ci osservano. A me ogni tanto, poi, soprattutto quello più grande, lancia, quando provo montare in cattedra, mi lancia 2 o 3 randellatine. Mia figlia, che aveva 4 anni, mi ha detto: le mamme hanno le tette e il telefonino. Si parlava prima di internet in senso di democrazia, cioè trovi tutte le informazioni che vuoi, qualsiasi cosa noi digitiamo, cosa usiamo? Normalmente Google, che è il 90%, detiene il 90% delle informazioni internet, non del deep web, ma del web naturalmente. Web. Esatto. Che poi ho scoperto cos'è il deep web e mi è caduta la mascella, cioè mi hanno detto che è 500 volte più grande esteso di internet, sono rimasto basito. Non penso che lo sa, non lo conosce penso quasi nessuno questa cosa. Comunque, vabbè, a parte quello dicevo, si parlava di democrazia, no? Io digito, che so, carciofo, voilà, mi appaiono 15 miliardi e 600 milioni di risultati, sì, però tu guardi statisticamente solo le prime due pagine. Sì. E chi c'è nelle prime due pagine? Tutte le cose di più che hanno maggiore, come si dice, visibilità, cioè il SEO, la visibilità su internet. Quindi non so dove sta effettivamente tutta questa democrazia, anche perché per ottenere quello si spendono un sacco di soldi. Riflessione generale. Stop. Non c'è dubbio. Il web profondo, il deep web a cui faceva riferimento adesso il genitore, è tutto ciò che abitualmente dai motori di ricerca normalmente disponibili nel web non è tracciato. E spesso in quel web ci sono molte delle informazioni più interessanti e anche le peggiori, dipende. Però non essendo tracciato, quindi le peggiori sfuggono al controllo, le migliori, ahimè, non diventano una risorsa per noi. L'esempio che lei porta è un classico esempio di come sia importante educare ad un uso consapevole dei media digitali. E al ragazzino che usa Google si potrebbe cominciare a dire: guarda che le prime 2, 5 pagine, le prime 50, 60, 70, 100 occorrenze che trovi sono o inserzioni a pagamento, quindi o siti che Google mette in alto perché chi ha voluto stare in alto ha pagato, oppure sono verosimilmente le pagine che hanno ricevuto più click. L'idea che ci sta sotto è intelligente. Se trovo la pagina interessante, la clicco. Se l'abbiamo cliccata in tanti, probabilmente è molto interessante. Quindi, se l'abbiamo cliccata in tanti, la teniamo su. Ma l'esperienza che ciascuno di noi fa è che quando si apre la prima pagina, il click sui primi risultati cade indipendentemente dall'interesse. È quasi automatico. E quindi gioco forza sarà che quelli in alto continueranno a restare in alto, anche se magari non contano niente. Non contano niente, ma sono cliccati perché stanno in alto e continuano a stare in alto. Ecco, questo è un esempio molto, molto concreto di un ragionamento che si può fare con grande tranquillità con il proprio figlio, per dirgli: guarda che se tu ti convinci di trovare tutto in Google, sappi che Google funziona così. Ci sono altri motori di ricerca, ad esempio. Questa è un'esperienza che io faccio spessissimo con le mie studentesse. Parlo al femminile perché a formazione primaria di maestri ce ne sono 2 al corso, 3 forse. Dipende dagli anni. Negli anni buoni sono 3 o 4, se no di maestri non ce ne sono più. Però capite che una futura insegnante che ha 24 anni, al quint'anno di università e deve andare a fare l'insegnante, arriva e avendole io dato la consegna di fare una ricerca bibliografica su un argomento mi dice: non ho trovato nulla. Dico: ma come non ha trovato nulla? Dice: ma sì, in internet non c'è niente. Dice: che cosa ha cercato? Ho cercato in Google. Benissimo. E anche in Google Scholar, e l'occhione si spalanca immediatamente, perché voglio dire, in Google ci sono tutta una serie di strumenti anche un po' più fini. Tra questi strumenti ce n'è uno che si chiama Google Scholar, che è il Google della ricerca. Se io cerco una parola chiave in Google Scholar, Google me la cerca solo dentro articoli di riviste scientifiche. Che poi magari non tutti gli articoli siano accessibili free, è un altro paio di maniche, però intanto. Ecco, quindi è perfettamente in linea con l'aspetto che richiamavo prima in relazione agli effetti di un'autorialità troppo facile, proliferazione delle informazioni a dismisura e impossibilità di distinguere quelle che ci interessano, certo. Mi vengono in mente due. Una che era una risposta che aveva dato a Fossano, gliela rilancio come domanda, e l'altra, non so se apriamo un mondo che però è importante. Allora, la prima è il discorso dei videogiochi. Adesso non ricordo bene la risposta, ma mi ricordo bene la domanda. Neanche io. Era, ok, no, al di là di Facebook, di navigare in internet, i nostri figli amano molto giocare. Certo, anche noi. Telefonini, anche noi, perfetto, ok, quindi due parole su questo. La risposta che avevo dato a Fossano è che l'età media del videogiocatore in Italia è 37 anni. Non è vero. L'età media del videogiocatore, 37 anni, quindi non diciamo che sono cose da ragazzini. E c'era anche qualcosa sulla, mi pare, risveglio di alcune capacità che fanno... Quando videogiocano. Ok, sì. Col videogioco. E la seconda domanda, sì, che aprirebbe un mondo, c'è anche qualche insegnante qua, scuola e nuovi mezzi di comunicazione, new media, tablet, non ci sono più i libri, ma ci sono i tablet. So che bisognerebbe fare un'altra conferenza, ma proviamo. Allora sì. Grazie Davide. Mi sono ricordato la risposta, che partiva da un libro di un giornalista di divulgazione scientifica americano che si chiama Steven Johnson. Lui è stato anche un redattore di Wired America, USA, per diversi anni. Lui ha scritto un libro tradotto in italiano con il titolo Quel che ti fa male ti fa bene. Provocatorio, il libro. E il libro, lui lo dentro il libro costruiva tutta una riflessione sui videogiochi basata su quello che lui chiamava, a proposito dei videogiochi, l'effetto del dormiglione, citando il noto film di Woody Allen, in cui il protagonista si risveglia da un coma in cui era caduto dopo diversi decenni e scopre che i medici che sono riusciti a salvarlo sono riusciti a farlo grazie ad una dose massiccia di cioccolata. E dice, no, com'è? Guardate che il cioccolato fa malissimo. No, dice, non fa malissimo, perché nel frattempo la ricerca scientifica ha determinato che invece fortissime dosi di cioccolato fanno benissimo. Allora, Steven Johnson dice, qui, nel caso dei videogiochi, il rischio è che si verifichi lo stesso fenomeno, e cioè che adesso diciamo che fanno male, salvo poi magari tra 20 anni accorgerci che facevano benissimo. Ecco, per spiegare questo fatto porta tutta una serie di esempi, quindi il libro è costruito sui vantaggi dal punto di vista cognitivo che il frequente uso di videogiochi possono portare ad un ragazzino. E quindi Steven Johnson dice lasciateli videogiocare. Lasciateli videogiocare perché svilupperanno incredibili competenze cognitive, e fa tutta una serie di esempi. Uno di questi esempi è relativo alle competenze inferenziali. I videogiochi ben fatti sono costruiti come macchine inferenziali, cioè se io ci gioco e ci gioco in maniera intelligente, imparo a ricavare da alcune informazioni conclusioni che non sono contenute nelle informazioni. È la stessa logica del sillogismo aristotelico, è la stessa logica della argomentazione tipica dei saperi astratti, e quindi il ragazzino impara a fare inferenze. Ancora, Johnson dice, questi mondi dal punto di vista narrativo sono complessissimi, sono di una complessità incredibile. Il ragazzino che ci gioca impara ad avere a che fare con dei plot, con delle storie multilivello, piene di personaggi, nomi di armi, di modelli incredibili. Noi non distinguiamo i due personaggi uno dall'altro, facciamo fatica a ricordarcene due di nomi. Questi qui hanno sotto mano l'intera tassonomia, l'intera classificazione di questi mondi. Questo che cosa comporta? Comporta lo sviluppo di competenze fini in ingresso rispetto a mondi narrativi complessi. E poi va avanti, ne cita tutta una serie di queste cose. Il problema qual è? Il problema è che non si capisce come si riesca a far fare transfer da quel mondo lì, ad esempio, alla scuola. Mi spiego? Perché? Per cui lo stesso ragazzino che ricava inferenze alla velocità della luce mentre videogioca è il ragazzino che poi magari di fronte al problema di matematica non trova il bandolo. Come si spiega? Allora, il problema vero è quello lì. Il problema vero è quello lì. E la spiegazione di fatto c'è, è una spiegazione articolata, la dà un altro studioso americano, questa volta un professore dell'Università dell'Arizona, che si chiama James Paul Gee. Io e Alessandra abbiamo tradotto uno dei suoi ultimi libri in italiano per Raffaello Cortina, e si intitola Come un videogioco il libro, La scuola al tempo dei media digitali. E Gee spiega perché le competenze sviluppate videogiocando non si riesce a trasferirle di là, perché dice che la scuola non è costruita come un videogioco ben fatto. Il videogioco ben fatto ha tre caratteristiche. Prima caratteristica, che lo rende efficace ai fini dell'apprendimento. Prima caratteristica, nel videogioco le grammatiche interne del videogioco si apprendono implicitamente. Nel videogioco non c'è una fase di preapprendimento dove io studio le grammatiche in maniera esplicita e poi comincio a giocare applicando quello che ho imparato dalle grammatiche. Quando videogioco io la grammatica la apprendo implicitamente, cioè giocando. Vero o no? A scuola succede mai che una grammatica, che le regole del gioco si apprendano giocando? No, noi sentiamo sempre il bisogno di spiegarle prima e poi speriamo che le applichino. Il problema qual è? Che mentre le spieghiamo in astratto, loro non le capiscono. Perché? Perché la regola in astratto è priva del contesto. Molto più difficile comprendere una regola in astratto che non una regola in atto. È quello che la figlia di Nicoletta Rita si chiama, ha capito benissimo, perché lei, eravamo a tavola, stavamo finendo di mangiare, dice: sai che adesso andiamo ad ascoltare Pier Cesare? E lei la guarda e dice: come, tutta sera? Ma che barba! Dice. Grammatiche esplicite, prima ragione. Quindi, per l'insegnante, primo esercizio da fare: se voglio che la scuola diventi come un videogioco e quindi che le competenze siano trasferibili, devo cominciare a fare in modo che le grammatiche siano apprese implicitamente. Secondo aspetto, è legato all'identità in gioco. G dice: nel videogioco che cosa c'è di avvincente? Che io dentro lì sono un omino, sono il mio doppio, e questo omino dentro quell'universo lì fa cose. Allora, l'attrattiva del videogioco è che io mi identifico con il mio personaggio e in virtù di questa identificazione dentro il mondo del videogioco io faccio di tutto perché il mio personaggio sopravviva, si sviluppi, apprenda, sfugga ai nemici, cresca e vinca. Nella scuola non succede mai che nel videogioco, come dire, che nel gioco della matematica io voglia essere il piccolo Keplero o il piccolo Eulero Venn e investa tutto me stesso in quel piccolo matematico o in quel piccolo chimico per farlo crescere, affermare, e perché alla fine vinca il gioco. Non succede, non c'è dentro il gioco delle materie di scuola lo stesso appeal che serva a far identificare il ragazzino a tal punto con il gioco da volerlo giocare e da volerlo giocare fino in fondo. Non succede. Allora, seconda sfida per l'insegnante: come si fa a rendere il gioco della mia disciplina così attraente, così sfidante, così interessante perché il bambino lo voglia giocare fino alla morte? Terzo problema, perché è così, Cioè, se voi ci pensate bene, quando si accaniscono su un livello di gioco particolarmente difficile, rimangono inchiodati lì ore fino a quando da quel livello di gioco non escono. Non c'è niente di gratificante. È una palla provare e riprovare e ti ammazzano ogni volta, vero o no? Eppure quella stessa caparbietà, di fronte al problema che non esce, non si manifesta. Si prova una volta e se non esce si chiude il quaderno. Ci sono altre soluzioni, dice: ah, lo spiegherà lei, oppure c'è Facebook, perché poi alla fine del pomeriggio arrivano sempre comunque le soluzioni e la mattina dopo almeno sul quaderno c'è qualcosa. La terza cosa è il gruppo di affinità. Lo dicevamo prima che il gruppo di affinità è una delle caratteristiche del mondo neomediale. Attorno al videogioco si generano dei gruppi di interesse di giocatori che giocano a quel videogioco lì, che si scambiano informazioni, si passano trucchi, discutono sulle strategie di gioco, producono cultura attorno a quel videogioco. Chi di voi videogioca sa che ogni videogioco di successo ha un sito, più di un sito ufficiale, dentro il quale si costruiscono le community dei videogiocatori e nasce un mondo, viene creato un mondo attorno al videogioco. A che cosa serve di solito il gruppo di affinità? Serve a definire le grammatiche esterne. Le grammatiche esterne sono un metalivello, sono informazioni su come è possibile usare le regole interne per giocare al meglio. Sono scorciatoie, sono trucchi, sono strategie. Terzo problema sfidante per l'insegnante: come si fa a fare in modo che la classe diventi un gruppo di affinità, cioè un gruppo di persone che si appassionano a tal punto alla matematica che cominciano a scambiarsi informazioni, trucchi, strategie, costruiscono discorsi, cultura sulla matematica. Ecco, questi sono i tre elementi che consentono al videogioco di sviluppare apprendimenti fuori della scuola. Il fatto che la scuola non sia allineata su questi tre punti spiega perché le competenze spesso rimangono lì e non passino di qua. Quindi la strada potrebbe essere tracciata. Qual è il problema? Il problema è che nel nostro paese la scuola digitale non viene pensata dal punto di vista delle didattiche, ma semplicemente delle tecnologie. Allora, mi permettete che se la scuola digitale è una scuola dove ci sono gli iPad, dal mio punto di vista non cambia niente. Cambia se grazie agli iPad la scuola diventa un videogioco, allora cambia. Ma se non diventa un videogioco, l'iPad sarà piegato a rispondere alle logiche tradizionali delle didattiche che si agiscono da sempre. E quindi invece di dire aprite il libro a pagina 24, dirò prendete il vostro iPad. È quello che in larghissima parte sta succedendo, tranne pochi casi virtuosi. A me non interessa che l'iPad, che il tablet sia un sostituto della carta, eh? Cioè non ci vedo niente di particolarmente affascinante. Sì, pesa di meno che uno zaino pieno di libri, forse alla fine paga dal punto di vista sanitario, risparmio dall'ortopedico, non avrà la scogliosi e quant'altro, però è residuale il discorso. Il discorso vero passa da lì. Il libro di G non è per specialisti, quindi è un libro che si legge anche con grande piacere ed è il libro di un linguista come lui, che non si era mai occupato di media e che si è appassionato al videogioco come macchina di apprendimento guardando videogiocare suo nipote e cominciando a rispondere alle domande intriganti di suo nipote. Lui si era reso conto che il nipote di 6 anni, videogiocando, aveva delle intuizioni incredibili che gli venivano sollecitate dal videogioco stesso. Perché poi ci sono tutta una serie di altri livelli di discorso al di là di quello dell'apprendimento. Un livello di discorso legato al mondo del videogioco, ad esempio, è quello etico. La domanda da cui il libro di G parte è proprio una domanda che suo nipote gli fa ed è una domanda etica, profondissima. Il nipote stava videogiocando con un gioco in cui il videogiocatore poteva scegliere di fare il buono o di fare il cattivo. Quindi io all'inizio del gioco costruivo il mio personaggio e potevo scegliere di essere buono o di essere cattivo. Quando io scelgo di essere cattivo, evidentemente che cosa succede? Succede che per me i buoni sono i cattivi. E infatti il nipote di G chiede al nonno, dopo avere finito una sessione di gioco, no, ma perché se sono cattivo sono buono? Intuizione geniale. Perché se sono cattivo sono buono? Cosa aveva capito il nipote? Aveva capito che dentro il mondo chiuso del videogioco, relativisticamente parlando, sono buono se dentro il mio gruppo, per quelli che stanno con me, quel che faccio è buono. C'era dietro il rapporto tra il bene assoluto e il bene relativo. E il nipote lo aveva intuito, videogiocando. Allora, banalmente, G dice, si potrebbe costruire una lezione o un pezzo di corso di filosofia banalmente partendo da un videogioco di questo tipo. Ce ne sono in giro tantissimi di videogiochi così, anche GTA San Andreas, appena uscito in ultima versione e subito comprato dai miei due figli, che si divertono come dei pazzi a seminare il panico per le strade di Las Vegas, massacrando con tutte le armi possibili ed immaginabili qualsiasi poliziotto gli si faccia incontro, perché GTA San Andreas è proprio un gioco di questo tipo. Tu sei il cattivo e tutti gli altri, che per l'ordine costituito sono buoni, invece nel videogioco sono i cattivi. È interessante. Di ricercare delle informazioni su delle riviste scientifiche. È un servizio di Google, si chiama Scholar, S-C-H-O-L-A-R, Scholar. Okay. E poi l'altra cosa è questa, come si può fare per riuscire a trovare nella rete appunto o un motore di ricerca che permetta di trovare delle informazioni selezionate? Se è possibile, non lo so, o comunque un mezzo, un qualcosa che mi permette di dire, se io cerco, faccio un esempio banale, una ricetta per fare il pane, che me ne esca una che sia seria. Adesso ho banalizzato la cosa, però ecco, non so se ho, sono riuscito a spiegare. Allora, sì, ci sono due modi per ottimizzare la ricerca di informazione, secondo me. Uno di questi modi è di rivolgersi al mondo dei newsgroup. Dentro la rete ci sono moltissimi gruppi di affinità, di esperti o di appassionati, che si ritrovano in rete e formano un gruppo di discussione proprio per discutere insieme ad altri esperti della stessa cosa di ciò che a loro interessa. Ci sono sicuramente molti newsgroup di panettieri, trovo il newsgroup di panettieri, mi ci iscrivo, lancio le mie richieste, le mie domande, le mie curiosità al gruppo. Stia tranquillo che sicuramente delle risposte arrivano e sono mirate. I newsgroup nascono nel web tra le comunità degli informatici. È chiaro che quando l'informatico ha bisogno di una informazione tecnica, non ha senso che si metta a percorrere Google scaricando manuali di istruzioni nei quali verosimilmente sarebbe troppo lungo trovare l'informazione o non la troverei mai. Vado in un gruppo di specialisti e chiedo a quegli specialisti che stanno in quel gruppo se mi possono dare l'informazione. Questa è una modalità per raffinare, per finalizzare meglio la ricerca di informazione. L'altra modalità interessante è servirsi, come si diceva prima, del crowdsourcing. Se invece di cercare io in Google milioni di pagine, cerco tra i risultati di ricerca che altre persone hanno pensato bene di condividere con me, forse, c'è un social network che si chiama Delicious, che consente alle persone di condividere bookmarks preferiti. Vuol dire che ciascuno di noi, mentre lavora nel web, trova delle informazioni, invece di salvarsele e di tenerle per sé sul proprio PC, le salva e le condivide con le persone nel proprio profilo in Delicious. Ecco, questo è interessante, perché se io in Delicious trovo il presidente della società dei panettieri, della reale società dei panettieri britannica, e posso fare ricerca tra i link che lui ha condiviso, sono sicuro che, a differenza di Google, quei link che lui ha condiviso sono tutti pertinenti. E siccome lui è il presidente dei panettieri, della reale società dei panettieri, verosimilmente quelli che ha condiviso sono stati selezionati da lui, che è un esperto. E quindi, ecco, questa è una seconda modalità interessante per raffinare la ricerca di informazioni. E una terza possibilità può essere di usare Facebook. E Facebook ha un motore interno, Facebook Search. Di solito il motore interno noi lo utilizziamo per cercare i nostri amici, per vedere cioè se in Facebook ci sono nostri amici che stiamo cercando. Quel motore di ricerca interno però potrebbe essere usato anche per cercare delle informazioni. Se a me interessa Aristotele e metto Aristotele nel motore interno, mi vengono fuori tutti i profili di coloro che in qualche modo nel loro profilo parlano di Aristotele, ma anche le pagine e i gruppi spesso di specialisti di Aristotele. Cosa faccio? Trovo un gruppo di studiosi di Aristotele, mi ci scrivo, quando sono dentro comincio ad usufruire delle informazioni su Aristotele che loro verosimilmente hanno già messo nel loro gruppo. E poi, se è un gruppo di studiosi di Aristotele, uso le persone che ci sono dentro lì per avere le informazioni che mi servono. Stessa logica del newsgroup con un altro tipo di accesso. Sono tre possibilità di ricerca, tutte e tre più efficaci che andare in Google. Dico, queste notizie sono molto interessanti, no? Però io vedo una cosa, io adesso suppongo che la maggior parte di persone qui dentro, quando va su Google, scrive sulla riga che appare lì in mezzo e la cerca, è quello che esce. Certo. Però magari pochi sanno che è messo con le virgolette, con dei simboli, certo. La ricerca già lì si restringe. Verissimo. Come può fare, cioè, dove uno può apprendere queste cose? Come può fare a conoscerle? Voglio dire, vado ad uno che vende computer e gli dico, scusi, mi spiega come fare? No, penso, o generalmente altra cosa, ecco, per rendere. Come posso io, secondo me, poter aiutare anche i figli, no? A appunto capire come funziona una cosa. Se uno lo sa già un pochettino, poi viene più facile. Se invece deve imparare, ecco, però dico, io sono anche disposto a imparare e a impegnarmi, però non so dove, a chi rivolgermi. Infatti dico, questa serata per me è un'occasione, ecco. Però dico, nella quotidianità magari ci sono degli spunti che ci può dare, che ci possono servire. Mm-hmm. E anche lì il lavoro lo dovrebbe fare la scuola. Il lavoro lo dovrebbe fare la scuola. Non ci sono dubbi. Se la scuola non lo fa e io genitore devo intervenire, ecco lì delle informazioni di questo tipo si trovano anche nel web. Allora, se io individuo alcuni siti di servizio buoni, di qualità, che mi forniscono informazioni, posso fare in qualche forma autoapprendimento. Ci sono dei video che servono, che spiegano, ad esempio, molte di queste cose. Il limite è che la maggior parte di questi video sono in lingua inglese, perché noi in Italia abbiamo una scarsa consuetudine alla pubblicazione, tendiamo a scaricare. Però, ad esempio, se io cerco in TeacherTube, oltre allo YouTube generalista, come sapete ci sono altri tubes, ce ne sono di pornografici, di tubes, molto cliccati anche nelle università, infatti dobbiamo continuamente pulire i PC delle aule, perché, ecco, ma tra i vari tubes c'è anche un canale che si chiama, un servizio che si chiama TeacherTube. In TeacherTube ci sono solo video didattici. Molti di quei video sono video dedicati all'information literacy, che è esattamente quel campo di sapere che si occupa di queste cose, come fare ricerca in maniera critica, intelligente ed efficace nella rete. E lì magari ci sono delle piccole serie di video che ti spiegano tutta una serie di cose. Di motori di ricerca ce ne sono tantissimi. anche usare motori di ricerca diversi può essere utile. In rete ci sono anche dei metamotori. I metamotori di ricerca sono motori di ricerca dentro i quali voi mettete una parola di ricerca e loro fanno la ricerca sugli altri motori e quindi vi selezionano i motori di ricerca che per quella parola probabilmente vi danno le informazioni più precise. Un progetto di metamotore di questo tipo, già lanciato qualche anno fa, si chiamava, adesso non so se esiste ancora, Copernic. Provate a cercarlo o se no digitate in Google, questa volta sì, metamotore di ricerca, vedrete che vi viene fuori un elenco di metamotori. Ecco, sono competenze di cittadinanza digitale che la scuola dovrebbe far passare, perché oggi buona parte della ricerca delle informazioni, anche a scopo di istruzione, passa dal web. Io mi linko, giusto per rimanere in tema, al discorso della cultura partecipativa. Testimonio che è eccezionale a livello di gruppi specialistici, perché se tu ti scambi informazioni con altri specialisti è immediato ed è pazzesco. Io che lavoro nella ristorazione, qualsiasi cosa, non sai fare una cosa, chiedi, ti danno 200 risposte in 2 secondi e rimani basito. Oltre a quello, addirittura cerchi lavoro, chiedi informazioni, cioè è automatico ed è potentissimo. Questa era solo una piccola parentesi. Invece una domanda che può sembrare forse stupida, non so se sociologica, però come mai, parlando per esempio di YouTube, che è un po' una vetrina di tutto, il contrario di tutto, i video, quelli che considerano virali, sono i più idioti? Cioè, sembra una domanda stupida, ma perché? Cioè, le cose più stupide sono quelle che hanno 500 milioni di visualizzazioni, per esempio. Perché girano? Cioè, è proprio la... Lì è il discorso che facevamo prima, no? Vale più in quei casi la rete dei pari che non il valore dell'informazione. E se il video me lo gira Davide, che magari nella cerchia dei miei amici è un opinion leader, anche se non mi fa ridere, automaticamente rido e quindi lo giro a mia volta. E siccome io a mia volta funzionerò da opinion leader nella rete dei miei amici, automaticamente sarà ben accetto. Il processo virale passa da lì, passa dal potere della folla e passa dal fatto che nella folla quel che conta di più è la credibilità, l'accountability, come dicono gli inglesi, ed è così. Io ho in Facebook un seguito di 2200-2300 amici, molti dei quali sono insegnanti. Il mio uso di Facebook è un uso abbastanza professionale, lo adopero per fare dei post, eccetera, eccetera. E tra quegli insegnanti che mi seguono ce ne sono moltissimi con i quali ci siamo conosciuti, ci siamo incontrati, hanno frequentato i miei corsi, e molti di questi sono diventati dei veri e propri fan. Io credo che potrei scrivere anche delle cose molto discutibili. Per molti dei miei amici di Facebook sarebbero straordinarie, comunque e sempre. Questo per dire quello che dice lei, no? Come funziona il discorso. Quindi la folla e la credibilità, il potere della folla e la credibilità di alcuni soggetti. Quindi da questo punto di vista le vecchie teorie sugli opinion leaders, sul two-step flow of communication, che valevano negli anni 30, negli anni 40 per le teorie classiche della comunicazione, oggi funzionano perfettamente anche dentro i social network, assolutamente. A proposito della risposta sul pane, pensavo che avrebbe citato anche Ask, che io conoscevo come... Ask.com. Ok. Spiegare cosa è successo a Bologna, perché io pensavo che fosse un sito che dava risposte. Si sono picchiati in 250, sì. Allora, ask.com è un social network la cui specificità, come suggerisce il titolo, consiste nel porre domande per ricevere risposte. Quindi domanda secca per avere di ritorno una risposta altrettanto secca. L'altra specificità di questo social network è che è assolutamente anonimo, quindi consente la generazione di account, di profili completamente anonimi. Ha preso piede tantissimo tra gli adolescenti e i preadolescenti in Italia. Oggi la community degli utilizzatori di ask.com è di circa 90 milioni di utenti nel mondo. Noi siamo al secondo posto dopo il Brasile come numero di utenti di ask.com. È balzato agli onori della cronaca un paio o tre di settimane fa. Perché? Perché è successo che a Bologna, dentro ask.com, un gruppo di ragazzini hanno cominciato a lanciarsi improperi. Questo gruppo si è progressivamente allargato dentro il social network e, dopo essersi allargato a dismisura, si è dato appuntamento nel centro di Bologna, e quindi poi il risultato è stato un pomeriggio di follia: 250 ragazzini tra i 12 e i 17 anni più qualche fuori quota, che a sprangate, a San Pietrini, a panchine di Velte, hanno veramente, cioè, una dozzina di feriti, una ventina di fermati. Ho capito che fosse stata una cosa solo telematica, invece è stata assolutamente no. Okay. E questo conferma quello che dicevamo prima, cioè non ci sono due cittadinanze, perché con grande facilità la vita va nel web e il web viene nella vita. Quindi lì i fatti di Bologna hanno dimostrato in maniera efficacissima che cosa vuol dire che oggi la medialità è parte integrante della nostra vita. E poi questore, il procuratore, grandi riflessioni di tipo sociologico, c'è poco da riflettere sul piano sociologico, e lì c'è un problema di affordance. Se io genero un social network completamente anonimo, è come se mettessi in mano alle persone dei fucili mitragliatori e poi mi stupissi se si sparano. Cioè, il problema è nell'impostazione. Il problema è nell'impostazione. Ecco, ask.com è quella cosa lì. So, è ora di andare a dormire. Siete d'accordo? Quindi ancora grazie a tutti, grazie a e buon ritorno. Grazie. Ci vediamo il 25 ottobre, venerdì, sempre qui con Gerolamo Spreafico.